24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Noi non sembra, in Europa ce la stiamo giocando con tanta fatica, non l'abbiamo vinta e non l'abbiamo persa, ma stiamo segnando dei gol, e questa è una novità. Una delle cose fondamentali accadute in questi primi mesi è che è cambiato il clima dell'Italia in Europa. Io non vado in Europa a dire per favore dateci ascolto, siamo l'ultima ruota del carro, siamo la Cenerentola. Io non vado con il cappello in mano. Stiamo facendo dei gol in Europa, un po' come la Juve ieri sera. Oh mamma. Vabbè, un inizio un po' più gentile per me non c'era? Allora, devo subito dire una cosa. Buongiorno intanto cari ascoltatori, amici di Radio 24, amici di 24 Mattino. Dovete prendere nota, perché a questo punto la campagna entra nel vivo. La campagna è Free Rossella Brescia. Deve essere una campagna aggressiva, di quelle che lasciano il segno, di quelle con le quali, con la quale misuriamo se state dalla nostra parte, se siete nostri amici, se combattete con noi, oppure se invece vi fate i fatti vostri. Allora, prendete nota di questa mail. La mail è della direttrice di RDS, Anna Pettinelli. La mail è semplice: a.pettinelli@rds.it. Ripeto, a.pettinelli@rds.it. E cosa le dovete scrivere? Scrivetele Free Rossella Brescia, direttrice, gentile direttrice, dottoressa Pettinelli, cara Anna, per favore, lascia Rossella Brescia andare una volta a 24 mattino al Parlamento. Oh, da qui si misura da che parte state, cari ascoltatori. Dovete riempire la posta di Anna Pettinelli. Cioè stamattina si deve svegliare, aprire il cellulare e dire: ma che sta succedendo, tutte ste mail? a.pettinelli@rds.it. Va bene? Ci conto. Sono le 6. Ma la finisci? Me la togli sta cacchio di canzone sotto? Porcaccia miseria. Tutta! Toglila! Cancellala, toglila dal computer, va bene, sono 6:33 minuti, voglio salutare subito il direttore di Vanity Fair, Luca Dini, buongiorno Luca. Buongiorno. Anche a te dà fastidio un po' l'inno della Juve, dillo. Abbastanza. Ecco, ma tu che squadra tieni? Tu sei interista. Sì. Ma no, non dirlo così. Caro direttore, intanto voglio salutare Lorenzo Nesponi in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia, tu lo sai che il mercoledì c'è sempre con te. E invece ma porca miseria, lo sapevi anche. Ieri mi ha mandato un messaggio, mi ha lasciato un messaggio in segreteria, volevo mandarlo in onda con una voce: Alessandro, ho 40 di febbre, scusami. Vabbè, e quindi Marione Adinolfi, abbiamo messo l'inno della Juve per te, porca. Juve, bianco che abbraccia il nero. La senti, ieri al decimo del squadra. Secondo tempo ero lì a dire dai. Poi dal letto gufaccio, e poi al 3-2 ho spento, ho detto vado a dormire, maledetto. Hai sbagliato il rigore al 93esimo, lascia stare, questo il rigore importantissimo. Ma infatti questa non l'ho capita, ma perché c'è differenza reti? Non l'ho capito. È certo che c'è differenza reti, vedete, come sulla legge elettorale, non ne capisci niente, non ne vuoi parlare. uguale. È un poco, cioè, quindi... le regole sono decisive. Qui, fammi capire, quindi c'è speranza ancora che ve ne andiate a casa? Se andiamo a fare i punti con l'Olimpiacos, se finisce a fare i punti con l'Olimpiacos, siamo eliminati. Bene, bene, questa è una buona notizia. Andiamo in Europa League. Questa è una buona notizia, andate in Europa League. Allora, siamo con Luca Dini, direttore di Vanity Fair, con Mario Dinolfi. Oggi è la nostra rossa è febbricitante. Che dobbiamo fare? Andiamo a aprire il Parlamento? Sì, apriamo il Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi, grazie. Eccolo qua, allora, caro direttore, hai sentito il buon Matteo Renzi che sta segnando dei gol in Europa? Cioè, queste metafore sempre, io oggi ho messo così, dacci oggi il nostro nemico quotidiano, che è Juncker. Che però ha risposto il burocrate, super burocrate, ha parato il rigore. Mi sembra un po' come la vicenda Vidal ieri. Ma Fabio, io vabbè, la strategia ormai l'abbiamo capita, fa bene comunque Luca, sì, va avanti così come un carro armato, non lo ferma nessuno. Fa bene comunque, la comunicazione è questa, cioè serve parlare così per, anche per fare le cose, perché poi ti tiri dietro il consenso che ti consente di fare le cose. Ti consente di fare le cose, sì, vabbè. Noi qua abbiamo Adinolfi che ci spaccia questa teoria del dittatore unico, ormai da mesi. No, Matti... non ho detto dittatore, imperatore. Mi piace molto di più. Il 25 maggio 2014 gli italiani hanno eletto Matteo Renzi imperatore, quindi può fare come gli pare. Può fare quello che vuole. Senza nessun problema, tutti quanti in Parlamento dicono no, vedrò, e poi gli voteranno qualsiasi cosa, possono andare a casa, quindi può fare quello che vuole. Vabbè. E quindi non credo mandarli a casa, però può fare tutto. Infatti sempre c'è questo, aleggia sempre questo spettro della elezione, delle elezioni anticipate. Juncker ha risposto. Devo dire al mio caro amico Matteo Renzi che non sono il presidente di una banda di burocrati. Ah, lei lo è. Io sono il presidente della Commissione europea. Ovviamente era voi soverato, no? Con la traduzione. Capito, Adinolfi, che scatto, che orgoglio, Juncker? È imperatore d'Italia, non ancora d'Europa. Deve, come dire, lì ha ancora un po' da remare, effettivamente un po' sì. Però è la linea che paga, insomma, Luca, ne abbiamo parlato tante volte, è la linea che paga. Sì, paga, assolutamente. È la linea Renzi. Ma sì, ma uno contro tutti, cioè vado avanti come un carro armato, ma sarà più importante... Se non ci fosse questo, diciamo... nel senso non cattivo, però ricatto verso gli altri, saremmo bloccati come eravamo prima. Sì, ma non è più importante il fatto che ancora ieri l'Europa ha detto le previsioni economiche siamo peggio della Grecia? Cioè questo, perché poi ci sono le parole, gli scontri, ma poi... Sì, però bisogna ricordare che la situazione economica dell'Italia non è figlia di questo governo, è inutile dare la colpa a chi c'è adesso e non essersi mossi quando lo sapevamo già 30 anni fa. Quindi che ci si aspetta, Marione? Che fa? Va in Europa? Che ci sono, appunto, tu che sai tutto di queste cose, ci sono nuovi appuntamenti? Ma su questo io dissento, diciamo così, amichevolmente dal direttore Luca Dini, pur avendo fatto il deputato renziano, essendo, diciamo così, nell'iconografia nazionale disegnato come un renziano a tutto tondo, io sono convinto che in Europa non ci vai dicendo adesso vi faccio sapere quanto costano i palazzi, voi siete una banda di burocrati, perché l'Europa è una cosa tosta, insomma, è una situazione in cui oggettivamente l'Italia si presenta con i conti non in ordine. Juncker ce l'ha detto proprio chiaro, cioè una crescita ridicola, il debito pubblico è quello che è, non è che potete venire e buttare i piedi, insomma. Cioè l'Europa è più forte di noi. È molto più forte, questa è una cosa che gli italiani non percepiscono ancora pienamente, quindi secondo me Renzi su questo deve smetterla di fare il bulletto di Rignano e deve capire che la logica dei rapporti continentali è una logica dove un po' di diplomazia paga. Ma secondo me glielo spiegherà Paolo Gentiloni, che è tizio, insomma, piuttosto sveglio, Paolo Gentiloni. Ragazzi, ma ci abbiamo già la Federica Mogherini, cioè scusa, glielo spiegherà, è lì, vabbè, Paolo Gentiloni, diciamo, ho capito, ma è lì nel governo europeo, può dire scusi Juncker, Federica Mogherini è il capolavoro di Matteo Renzi, infatti il capolavoro. Sei riuscito a mettere che messa così non è un complimento per Federica Mogherini, non no, suona il capolavoro di Renzi, non suona. Cioè, può riuscire, io ti metta che ti posso dire ministro delle riforme Milan, capito? Cioè non può succedere di tutto a sto punto. Hai grandi speranze anche tu. Va bene. Guarda che io ministro delle riforme, guarda che mi applicherei sulla legge elettorale, sui sistemi elettorali, con i dati. Chiamo subito Dalimonte, lo faccio mio consigliere di fiducia, dico mi spieghi la legge elettorale. Ma non lo capisci, e io te la spiego da mesi, tu non capisci, Dalimonte non lo capisci. Direttore, abbiamo fatto bene a chiamare Adinolfi, secondo te, al posto della Sanuzzi? Molto bene. Vabbè, intanto io vi ricordo ancora la mail, non l'avete ancora spedita, anche tu Luca Dini, che so che con RDS sei amico. Sì, questa è importante battaglia civile. Anche tu Adinolfi, ti voglio vedere scrivere la mail a A. L'ha già scritta mia moglie, guarda. Ma veramente? Sì, A.Pettinelli, guarda che controllo. Lei è innamorata del mio innamoramento per Rossella Brescia, spera che me ne vada di casa. Cioè Rossella Brescia, devi venire qui perché confida la moglie di Adinolfi che tu, conoscendo Adinolfi, cominciando a conoscere, a socializzare, te ne vai fuori dalle balle di casa. Comunque A.Pettinelli@rds.it è il direttore di RDS, la direttrice. Forza, scrivete e incitatela a mandarci Rossella Brescia, se non l'avete ancora fatto. Ma io voglio farvi sentire invece questo di Salvini, perché mi incuriosisce, si muove molto nel centrodestra, c'è gran fermento dopo che Salvini ha detto che vuole diventare il leader del centrodestra, prendersi tutto il centrodestra. Berlusconi è molto arrabbiato e Salvini due giorni fa combatteva a Quinta Colonna così. C'è chi invece cerca di fomentare, di costruire una guerra tra poveri che è funzionale soltanto a quei razzisti come Salvini, quel che è in studio da voi in questo momento, che sul razzismo, sulla guerra tra poveri costruisce il consenso. Io ci vado a lavorare, vai Salvini. A lavorare, facci tu a lavorare, vai a lavorare. E così non va bene però. No, non va bene che ci sia chi pretende di occupare quello che ci non sono, è suo. Ci sono, sono 20.000 persone 20.000 che aspettano una casa vuote, popolare. Occupa casa tua e non rompere le palle al prossimo. Capito okay. Salvini come combatte? Va, continua. Non è finita. I dirigenti dell'Aler in questo quartiere non ci hanno mai messo piede e guadagnano 60.000 euro all'anno. Ecco, la gente che è qua, questi soldi non li ha mai visti, neanche lo stipendio di Salvini l'ha mai visto. Tu occupa i giardinetti, che io al Giambellino ci sono nato e cresciuto, tu occupa i giardinetti e non rubare la casa a chi ne ha diritto, hai capito? Non rubare la casa a chi ne ha diritto, ma vai a cagare. E Ale, poi è finita democraticone, così gli diceva Salvini a questo signore che occupava le case. Luca Dini è il leader, può essere il leader del centro-est, secondo me i voti Salvini li prende forse a destra, ma il centro se lo scorda, come dire. Ma la destra c'è in Italia, non è che ho capito, ma non è che lui sta parlando dritto alla pancia degli italiani con quel populismo che funziona. Ma funziona per vincere le elezioni? Perché è questo, cioè quanto può guadagnare? Funziona per prendere più voti, no, per vincere le elezioni non credo proprio. Per prendere più voti sì, per diventare rilevante, più rilevante, forse leader nello schieramento di centrodestra, temo di sì. Questo può succedere, insomma, è solo che però già, non so, Flavio Tosi della Lega dice ma così non si vince, cioè così magari otteniamo un buon risultato, ma se si esclude il centro con queste politiche anche molto aggressive non si vince. Oggi però è interessante, parla di Rolfi su... Non si vince neanche nell'altro modo. Non si vince neanche... Beh, vabbè, a questo punto... Contro Renzi no, sicuro. Contro Renzi no, e allora cos'è? Meglio una, come dire, una sconfitta dignitosa ma con un centrodestra... È meglio prendere più voti lui così li prende perché agita tutti gli spettri che funzionano. Oggi sul Corriere della Sera c'è un editoriale in prima pagina di Giovanni Belardelli a dire la vittoria di Salvini, i sondaggi che lo premiano, è perché gli altri partiti hanno delegato tutto sul tema sicurezza, cioè come se non... per cui sì, un po' parla la pancia di Adinolfi, parla la pancia del paese. Ma chi se ne frega dell'editoriale Corriere della Sera, c'è una breaking news, Rossella Brescia ci ha risposto via Twitter. No, scherzo. Attenzione, non ho Twitter davanti a me, fermi tutti. Come fossimo fermi tutti. Cosa dice Rossella Brescia? Leggicelo in onda. Sei tremendo, Alino Milan. Ma che sei tremendo? Ma vieni qui al vaso di dirmi sei tremendo. E poi ha aggiunto improvvidamente: devi fare davvero il ministro. forse una cosa che poi gli italiani non stanno facendo gli scongiuri. Ma insomma, Rossella, capisco l'innamoramento, ma capisci che il povero Milan tutto può fare tranne che il ministro, tranne che tutto, il ministro. No, no, però, vabbè. Magari in un governo Salvini ce lo vedo. Ho capito, ho capito. Sulla direttrice della Padania Aurora Lussana, sottosegretario, certo. Vabbè, comunque, insomma, questo tentativo sei tremendo per cercare di sviare. Io la ripeto: a.pettinelli@rds.it. Riempite la casella di posta della direttrice di RDS. Vabbè, adesso Salvini. Adinolfi, ma dopo questa no, breve, ma davvero okay, Salvini, ma veramente vogliamo fare. Salvini è un grande paraculo, fa quello che fa qualsiasi politico, capisce dove gira il vento, tira su un ditino, sente il vento dove tira da quella parte e intelligentemente si mette da quella parte. Cioè, capito? Ma adesso non è che c'è solo Renzi, punto e basta, il resto è morto. Renzi, no, no, va bene, bene, finisce 80-20, prende 20, che è più di prendere 5 quanto ha preso fino adesso la Lega, va benissimo, bene, però è 80-20, quindi ha detto bene il direttore Lucatini. Insomma, che partita è? Allora, non è una partita interessante perché quella posizione è comunque residuale, cioè non è una posizione di popolo. Il centrodestra popolare che vince, per capirci, è quello dei democristiani tedeschi, è quello dei popolari spagnoli, sì, cioè sì, una grande impostazione popolare che può battere una posizione di sinistra. E come in tutta Europa la dialettica fra popolari e socialisti, anche in Italia o nasce un grande soggetto popolare che non spaventa i ceti popolari, perché tu non puoi fare una linea, diciamo così, lepenista, perché Le Pen sono 50 anni a quella linea lì in Francia, ogni tanto si affaccia, fa un buon risultato, poi quando si arriva al dunque si unisce tutto l'arco costituzionale e batte Le Pen. Ora qualcuno mi potrebbe dire, può succedere stavolta persino Le Pen vinca in Francia? Può essere, ma che Salvini vinca in Italia. Ma no, no, che vinca no. Comunque andiamo al traffico, poi voglio parlare di quello che è successo in America, noi ne parleremo alle 8:15, il caso di Brittany Maynard, forse ne avete sentito, che ha deciso di darsi il suicidio assistito e la Chiesa dice di no, no, no. 24 mattino. Ciao Milan, hai visto il grullino di Firenze che è andato dentro le fabbriche a fare le riunioni di assemblee, però senza operai, perché lui non ha il coraggio di confrontarsi veramente sulla realtà dell'articolo 18. Milan, tira fuori la tessera, lo sappiamo tutti che sei un massone, io sono un massone, dillo, dillo, dillo. Caro Babbo Natale, quest'anno voglio il libro di Bruno Vespa. Ah, me lo porta lui direttamente alla Befana? Va bene. Ciao Babbo Natale, ciao. Peter Nescafè, bevetelo, non fa male al cuore. Milan, Milan, con tutto il rispetto per Benigni, ma basta la mattina, pubblica questo. Io sono un italiano, non ce la faccio più, sono incazzato nero. Pubblica questo alle 6:30 di mattina. Mai risposto, Alessandro, alla mia domanda. Volevo sapere se tu e Adinolfi avete mai usato la zappa. Ero curioso di saperlo, fallo sapere. Ciao, ciao. Allora, io non so Adinolfi. Io, caro ascoltatore, ho passato l'infanzia, passavo 3 mesi all'anno a Piateda, in provincia di Sondrio, una mena località dove sono cresciuto. Avevo l'orto, raccoglievo i fagiolini, le carote. Quindi fino ai 13-14 anni ho munto le mucche, sono andato al pascolo con le mucche, va bene? La zappa ci ecco, vuole, la appunto, zappa da 7 chili. Tu Adinolfi hai mai zappato? Io sono stato 2 giorni questo weekend in agriturismo, ma va a quel paese! Il miele naturale, le uova prese dal culo della gallina, vale! Ma va a quel paese! Ma. Lucatini, non vale, direi non che vale, non, niente, vale. Non vale. Allora, i psicopatici della tua segreteria telefonica li salutiamo. Eccala. No, parliamo di questa cosa molto seria, anche perché voglio approfittare. So, Maria Adinolfi, lo sapete, ha scritto un libro, Voglio la mamma, in cui ha parlato di tutti i temi etici e so già cosa ne pensa. Io voglio, allora, Lucatini, ma che ne pensi adesso? La Chiesa faccia la Chiesa, e questo non c'entra di male, la Chiesa deve fare la Chiesa certo, non è che può fare altro, ma perché dire che non ha dignità una persona che sceglie di porre fine alla propria sofferenza? È una morte senza dignità, ma chi è che è titolato di giudicare se una ha dignità o no? Questa è la domanda. La Chiesa pensa di esserlo, cioè il suo lavoro. Io ovviamente sono totalmente in disaccordo, lo trovo anche abbastanza crudele, cioè sono parole che forse potevano essere formulate in un altro modo. Detto questo, a Brittany Maynard non fanno certo male ormai. Quindi. No, chiaro. Io credo che la gente sia, cioè che il sentimento pubblico generale sia tutto da un'altra parte. Ma io, forse la Chiesa prima o poi se ne accorgerà. Io devo dire, perché quello che è successo succede tutti i giorni negli ospedali, di nascosto, esattamente come succedeva una volta con l'aborto, insomma. È una realtà che c'è. È una realtà che c'è. C'è da dire, io posso capire, lo so che può suonare molto molto crudele anche questo, che una qualche critica per quella che è stata definita una spettacolarizzazione degli ultimi mesi di vita di questa persona, che sicuramente ha voluto sposare una causa. Sì, però posso dire, a me dà ancora più fastidio questo, Alessandro, sì. perché una persona in quelle condizioni può fare quello che vuole e non si può giudicare, e comunque anche la spettacolarizzazione serve a far pensare a, se uno vuole fare quello, se lei ha deciso che gli ultimi suoi giorni li voleva passare trasmettendo un messaggio, beh, insomma, come minimo va rispettato. Ma infatti c'è, di foto io la persona. Sì, ma no, ma la questione, della dignità. Però vorrei sentire Marione Adinolfi, che su quest'altro vogliamo ricordare. Mario, quando è che parte il tuo quotidiano? Tu sei un matto vero. Se si lancia il 13 gennaio, cos'è che parte? Il 13 gennaio nasce un quotidiano che si chiama La Croce. È un quotidiano. Tutti i giorni ci occuperemo proprio di questi temi. Ti prego, Luca, puoi fare un servizio su questa pazzia? No, che un quotidiano cartaceo Adinolfi, La Croce, abbastanza complesso. Diciamo. Allora, intanto diciamo che il presidente del Pontificia Accademia per la Vita, sarebbe una sorta di ministro sulla bioetica in Vaticano, sì, si chiama Carrasco De Paola, non ha detto che la signora si è suicidata senza dignità, ha detto una cosa diversa. Che non è una morte con dignità il suicidio assistito. Ha detto, questa donna testuale, questa donna lo ha fatto pensando di morire dignitosamente, ma è qui l'errore, suicidarsi non è una cosa buona, è una cosa cattiva, non giudichiamo le persone, ma il gesto in sé è da condannare. Ora, ma perché? Il tema è uno, tutti i giornali, ma tutti, proprio unanimemente, hanno proposto questa vicenda come il modo di morire dignitosamente, questa è stata l'espressione usata, come si usa asfalto reso viscido dalla pioggia, cioè il luogo comune era questo, morì è la morte dignitosa. Ora io voglio dire, ma noi che abbiamo tenuto le mani ai nostri nonni mentre morivano nel dolore, abbiamo dato a loro una morte non dignitosa? Ma no, ma non è che dire, cioè, che... Perché quella è una morte dignitosa? Ma mica vuol dire che non è dignitosa quella degli altri. Allora, bene, specifichiamo questo, questa è la prima cosa da dire. Cioè l'elemento in cui uno pensa, perché c'è gente che lo pensa, nonostante tutto, che la vita sia un dono e che non si abbandona, non ci si abbandona l'idea che se sei malato la soluzione è sopprimersi. Perché se passa questa idea, che quando c'è un male complicato, la soluzione più agevole è la soppressione dell'essere umano, questo elemento diventa estremamente pericoloso. Sì, però questa non è la soluzione, Mario, è una soluzione scelta in libero arbitrio da una persona. La campagna intorno a Brittany è una campagna per la legge sull'eutanasia, che esiste in Europa in alcuni paesi, in Belgio e Olanda esiste. Sono state soppresse in Belgio e Olanda 20.000 persone. È una legge sulla scelta libera. Attenzione su questa cosa. E quando arrivi in quel tipo di situazione, la scelta può essere libera o anche meno libera. Può comunque essere dettata da tanti interessi. Noi ne parliamo alle 8:15. Io ho solo tempo per chiudere, per ricordare che le dico al numero di Vanity Fair. C'è Jessica Chastain in prima pagina. E se non la conosci, Maria Adinolfi, sappila come è buona. Insomma, Jessica Chastain, sì, abbastanza è buona. Ma vi ringrazio ancora a punto Pettinelli @rds.it. Scrivete alla direttrice di RDS, vogliamo Rossella Brescia qui. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qua alle 7:19 minuti, siamo pronti a leggere i giornali come al solito a quest'ora. Vi ricordo che parleremo appunto della vicenda di Brittany Maynard, le polemiche, questa americana che ha deciso di porre fine ai suoi giorni con morte a suo dire dignitosa, perché era malata molto seriamente, lo ha fatto nell'Oregon. E ieri sono arrivate le parole dell'esponente Vaticano a dire che non c'è nel suicidio assistito la dignità. Pur non giudicando i gesti, si fanno sempre queste premesse, ma la Chiesa prevede altre cose. Ne parleremo dalle 8:15. Chiamate voi dalle 8, i centralini sono aperti, 800 24 00 24. Avremo con noi Mina Welby, ricordate, la moglie di Pier Giorgio Welby. Avremo l'onorevole Paola Binetti, avremo il nostro Gianluca Nicoletti, perché un aspetto di questa vicenda certamente è stata anche l'accusa di spettacolarizzazione degli ultimi mesi di vita di Brittany Maynard, che ha dovuto subire la stessa persona e la stessa famiglia. E quindi chiederemo un parere al nostro Gianluca dalle 8:15. State con noi, intanto leggiamo i giornali. In questo mercoledì 5 novembre le aperture sono quasi tutte dedicate all'Europa e alle scintille tra Renzi e il presidente Commissione Europea Juncker. Faro Unione Europea su debito e deficit. Questa in realtà è l'apertura del Sole 24 Ore, più dedicata al fatto che l'Europa ci giudica negativamente, dati alla mano, peggio della Grecia. Corriere della Sera, Juncker sferza Renzi, è scontro. Repubblica, Juncker gela Renzi, allarme debito, non siamo una banda di burocrati. Il Messaggero, Renzi-Juncker scontro frontale. La Stampa, scintille tra l'Unione Europea e Renzi. Mentre per il Giornale, la dieta Renzi, imprese dimenticate. Libero invece prende un altro aspetto dell'Europa, cattivi coi Rom, l'Unione Europea ci multa, rischiamo un'infrazione perché trattiamo male, secondo l'Unione Europea, i Rom. Il Fatto Quotidiano invece ha questa apertura, la vera storia di Renzi e Berlusconi, lo zio di Renzi era in affari con Fininvest. E c'è un'anticipazione di un libro, ma voglio partire da una buona notizia. Spesso si dice sui giornali ci sono cattive notizie, quindi tu racconti cattive notizie, eccola qui, io racconto quello che raccontano i giornali. La buona notizia è questa. Si chiama Fabiola Gianotti, è italiana, è la prima donna che guiderà direttore del CERN di Ginevra, il più grande laboratorio dedicato alla fisica delle particelle. Insomma, un'italiana che ce la fa, e ce la fa in maniera esemplare. Barbara Gallavotti racconta sulla Stampa, intervista in realtà Fabiola Gianotti, io, lady della fisica, sogno una scienza per unire il mondo. Ecco lei che scoprì l'annuncio, fece l'annuncio del bosone di Higgs, e allora raccontò, non ci può essere emozione maggiore per una ricercatrice, una scoperta del genere. E allora chiede Barbara Gallavotti sulla Stampa, si è ricreduta, è più emozionata oggi, una scoperta per uno scienziato è un'emozione unica, risponde Fabiola Gianotti. Quella di oggi è sicuramente diversa, ma in effetti è molto speciale. Ora i miei sforzi si concentreranno nel far sì che il CERN mantenga un ruolo di primo piano in campo scientifico, tecnologico e didattico e continui a essere un luogo in grado di unire scienziati da tutto il mondo. Ho molto da imparare da questa sfida, ma anche molte nuove energie. Sarò il primo direttore donna e una delle pochissime donne a ricoprire un simile incarico nella fisica. In un certo senso trovo naturale che questo sia avvenuto al CERN, risponde la professoressa Gianotti. Il nostro laboratorio è un luogo che celebra la diversità e ha una totale apertura verso tutte le differenze, non solo di sesso, ma anche di età, etnia, religione e tradizioni. Ricordo che in questo momento una donna è anche il presidente del Consiglio, la scienziata polacca Agnieszka Zalewska. E beh, insomma, complimenti. Nata nel 1962 di padre piemontese e madre siciliana, Fabiola Gianotti, che ha studiato fisica a Milano, dall'87 lavora al CERN ed è stata nominata direttore Gianotti, italiana, la prima donna capo del CERN, anche Repubblica la intervista, la signora del bosone ora conquista il CERN, noi donne di scienza con una marcia in più. È davvero complimenti e una bella notizia. Complimenti anche al tesoriere del PD, Francesco Bonifazi, è tutto esaurito, le cene per Renzi non c'è più posto, è inutile che adesso vi affrettate con i vostri 1.000 euro a cranio per partecipare a questa cena con Renzi, il 6, cioè domani a Milano, il 7, dopodomani a Roma, oltre 1.000.000 di euro in 2 cene già raccolti, ecco chi finanzierà il partito. Monica Guerzoni, a pagina 7 del Corriere della Sera, racconta che per lanciare, per cenare con Renzi, ma anche con Maria Elena Boschi, Maurizio Martina, Marianna Madia, cioè alcuni ministri, si è già arrivati a 600 coperti a Milano tra gli invitati Dolce e Gabbana, che però non andranno, c'è la polemica, sai, sapete, dopo l'assoluzione con Milano, la voglia di restituire l'Ambrogino d'oro. I big di Confcommercio hanno chiesto un tavolo per 10. Tra i nomi più in vista, Beniamino e Marcello Gavio, re delle autostrade del nord, Valerio Saffirio, fondatore della società di Digital Design Rockivo, Alessandro Perron Cabus, AD della Sestriera SPA, Pietro Colucci di Kinexia, Energie Rinnovabili, Roberto De Luca di Live Nation Italia, Flavio Paone di Dream Cosmetics, tutta gente che ha una gran voglia di far sapere da che parte sta. Fa sapere il Corriere. Certo, c'è un po' di maretta perché per questo crowdfunding la minoranza del PD dice: ma insomma, in che mani ci vendete? Qualcuno ha detto: questa non è la nostra gente. Ma Renzi tira dritto, oltre 1.000.000 di euro già raccolti, anche per la stampa, 1.000 commensali per le cene con Renzi. Il PD incassa 1.500.000 di euro. Signore e signori, è già alzato dalla stampa al Corriere. Aumenta di 500.000 di euro. I Gavio, la Nestlé, manager di gruppi di assicurazioni, racconta Carlo Bertini, tra gli invitati a questa cena, o meglio autoinvitati, coloro che hanno prenotato per cenare con Renzi, offerta minima, attenzione, era minima, 1.000 euro. C'è chi avrà messo 1.500, chi 1.001, per non farsi vedere, come dire, proprio 1.000, chi invece avrà messo 2.000-3.000 euro. Sta di fatto che la cena è domani a Milano e dopodomani a Roma. A proposito di questo, sotto questo articolo il Corriere della Sera mette anche la vicenda a Londra di Davide Serra, sapete, il finanziere molto vicino a Renzi, che ha deciso di iscriversi al PD, lo ha fatto a Londra, e c'è l'intervista a chi? A Roberto Stasi, laurea in Bocconi, 32 anni, lucano, segretario della sezione PD a Londra. Sentite cosa dice al Corriere della Sera: la tessera del PD a Serra? Molto bene, sono contento, ora ci aiuterà a dare volantini. Ma come? A dare volantini? Ve lo vedete, Davide Serra, perché così dice il segretario del PD sezione di Londra, lo facciamo tutti, anche lui darà volantini. Ma dubito, dubito. Guai in vista invece per Emilio Fede, sempre di più, sapete, dell'ultima inchiesta che lo vede indagato, come raccontava la stampa, perché aveva anche spacciato, secondo l'accusa, dei fotomontaggi con dirigenti Mediaset in compagnia di transessuali, erano fotomontaggi, e racconta Paolo Colonnello, sempre sulla stampa: Fede cacciato da Mediaset, perde casa e lavoro, gli è stata tolta la consulenza che aveva da 27.000 euro lordi, per carità, al mese, che percepiva da 3 anni, ma gli hanno tolto anche la casa di Milano 2, il pagamento delle bollette di luce, acqua, gas e telefono, i 2 autisti, segretaria, ufficio, mancano giusto i dischi di Little Tony, scrive la stampa. E poi si può dire che Emilio Fede è stato ridotto sul lastrico. Beh, certo, si fa per dire, avrà la pensione. Contattato dalla stampa dice: cosa volevi che facessero dopo tutto quello che avete scritto? Sbam! E butta giù il telefono. Emilio Fede perde tutto. Stoppa la super consulenza, la casa. Gli è stato solo concesso, scrive la stampa, di tenerla fino a novembre, ma ne dovrà trovare un'altra. Ai ai. Dov'è che è l'articolo Mani sul volante che vince? Ecco l'articolo che mi fa più pensare di questa giornata. Eccolo qua, Olivia Posani sul quotidiano nazionale Il Giorno. non è tanto il fatto che i comuni siano contro il governo per Italia, la legge di stabilità, avranno tutte le ragioni del mondo, ma poi leggo così, comuni e province, province, siamo nella 79esima settimana decisiva per l'abolizione delle province che allora esistono, vivono, lottano insieme a noi. Oh, il pubblico, ascoltate me in questo istante, perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste. Alessandro Milan, il giornalista decisivo. Effettivamente, intanto io voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno già scritto dicendo di avere scritto come vi ho ordinato di fare una mail alla direttrice di RDS, vale a dire Anna Pettinelli. La mail è questa, è a.pettinelli@rds.it, perché vogliamo Rossella Brescia un giorno alle 6.30 al Parlamento. E mi hanno scritto Luca, Gennaro, Chris, Giorgio, Massimiliano da Lecco, ha spedito 4 mail a nome di 4 persone. Bravi! Avanti così e vinceremo noi. Intanto, chi vincerà invece nello scontro così rappresentato plasticamente tra Renzi e Juncker, no? Ieri Juncker, presidente della Commissione Europea, ha fatto sapere al mio amico Renzi: non sono il capo di una banda di burocrati. E subito a stretto giro ieri a Ballarò Renzi ha risposto in un'intervista dicendo: noi non andiamo più in Europa col cappello in mano. Come racconta anche Marco Galluzzo a pagina 3 del Corriere della Sera, il premier dice: ci sono dei patti e lui, cioè Juncker, lo sa. Ecco il duro confronto nell'ultimo Consiglio europeo. Se non è un burocrate ma un politico, cosa che tutti gli riconoscono, speriamo lo dimostri quanto prima, rispettando i patti per cui è stato scelto. Ci sono documenti precisi. Di sicuro noi saremo inflessibili alla base della nuova Commissione. C'è per la prima volta dopo anni un'idea diversa d'Europa e tocca a Juncker voltare pagina. Così Matteo Renzi dice ai suoi, insomma, ma quali sarebbero questi patti? Tra i due c'è anche della ruggine, fa sapere il Corriere della Sera, legata al passato. Juncker, mentre faceva campagna elettorale, aveva detto che voleva nomi e non caselle per formare la nuova commissione. E Renzi fu il primo a infischiarsene, associando il nome di Federica Mogherini al posto di Lady Pesk, cioè il commissario per la politica estera europea, e da qui la ruggine. Sta di fatto che ieri Juncker è partito in quarta con questo attacco frontale. Tutti si concentrano su questo scontro. Non è il caso forse di concentrarsi un po' di più, non tanto sullo scontro verbale, ma sul giudizio che l'Europa ha dato dell'Italia? E come scrive il Sole 24 Ore, non è un giudizio positivo. L'Unione Europea ha rivisto le previsioni, ha lanciato un avvertimento all'Italia su debito e deficit. Per Bruxelles il disavanzo strutturale resterà stabile nel 2015, ma sarà in aumento l'anno dopo, nel 2016, come scrive il Sole 24 Ore, i dettagli a pagina 2. Insomma, l'economia europea è sempre più debole e l'Italia segue, stime nettamente al ribasso soprattutto per Germania e Francia, mentre bene Irlanda e Grecia. Ma la situazione economica tratteggiata anche per l'Italia è una situazione negativa. Allora vi chiedo, ci interessa più la disfida tra Juncker e Renzi che passa tra 24 ore oppure questa cosa qui? Che rimane un po' più strutturale, cioè che l'Unione Europea dice che andiamo male dal punto di vista del debito e del deficit. A ognuno sano di mente la risposta. A proposito di Europa, ci sono due notizie sui giornali di altro taglio rispetto alla campagna, alla disfida tra Juncker e Renzi, e sono queste: IMU e Chiesa. Ricordate la vicenda? L'Unione Europea riapre il caso, scrive Repubblica a pagina 9. Alberto D'Argenio racconta che c'è stato un ricorso dell'ex deputato radicale Maurizio Turco e del fiscalista Carlo Pontesilli, entrambi sono esponenti dei radicali. Hanno fatto ricorso contro una legge varata dal governo Berlusconi in campagna elettorale e dopo una serie di archiviazioni ora l'Unione Europea ha deciso, con la decisione del 29 ottobre dell'ottava sezione del Tribunale, che ha applicato una nuova norma del Trattato di Lisbona, insomma tutte questioni legali, ma la sostanza è che l'Unione Europea riapre il caso sugli sconti fiscali alla Chiesa. Lo fa con una decisione, scrive Repubblica, clamorosa della Corte di Giustizia di Lussemburgo, perché i giudici europei hanno deciso di ammettere nel merito un ricorso che potrebbe costare agli enti ecclesiastici che operano in Italia fino a 4 miliardi di euro, cioè l'ammontare di ICI e IMU, che secondo questo ricorso non sono stati pagati dal 2008 a oggi. Questa è una bombetta che rischia di scoppiare per la Chiesa italiana. E l'altra vicenda che riguarda l'Unione Europea e che di riflesso riguarda noi è invece l'apertura di Libero. L'Unione Europea ci multa, siete cattivi coi Rom. Scrive Belpietro, Juncker si offende se il nostro premier gli dà del burocrate, ma poi Bruxelles attacca Roma perché non regala alloggi ai nomadi e non offre loro adeguate possibilità di lavoro. Con la disoccupazione che c'è in Italia, chiosa Belpietro. L'articolo è di Tommaso Montesano a pagina 3 di Libero. L'Italia rischia una procedura di infrazione dell'Unione Europea per il modo in cui tratta i Rom. È una lettera di avvertimento giunta da Bruxelles, di cui si è avuta notizia solo ieri, spedita però il 24 aprile, mittente la Direzione Generale Giustizia della Commissione Europea, destinatario Palazzo Chigi. Si richiedono informazioni riguardo a questioni di alloggio dei Rom ai fini della direttiva Pinco Pallino dell'Unione Europea. Bruxelles vuole vederci chiaro, insomma, sulle condizioni abitative dei nomadi nel nostro paese. A far da detonatore l'esistenza di un campo per soli nomi, i Rom, in località La Barbuta a Roma. Questo tipo di alloggio per la Commissione Europea in un sito molto remoto e non accessibile, dotato di recinti e impianti di sorveglianza, viola i diritti fondamentali degli interessati, isolandoli dal mondo e privandoli di adeguate possibilità di occupazione e istruzione. Belpietro, direttore di Libero, commenta: altro che burocrati, sono proprio dei matti questi dell'Unione Europea. Staremo a vedere quest'altra grana in Italia. Mentre la politica è tutta sul Jobs Act, la discussione alla Camera, medierà, non medierà, Renzi porrà la fiducia dopo averlo posto anche al Senato, chi lo sa che farà. Intanto Oscar Farinetti viene intervistato dalla stampa e fa sapere che lui non può parlare. La Digos ha sconsigliato un suo intervento pubblico e Oscar Farinetti dice: non mi fanno parlare per la mia amicizia con Renzi, sono amico di Renzi ma io non sono renziano, sono renzista, dice alla stampa. Vuol dire che non sono un suo sodale politico, sono uno che approva il modo di affrontare i problemi suoi. Anche la sua imprecisione mi piace, ma alcuni imprenditori, miei amici, addirittura mi considerano un comunista. C'è gente invece che mi dà dello sfruttatore. Io tratto bene i dipendenti, ma sono accusato con linguaggi violenti. E Oscar Farinetti dice: beh, certamente verrebbe da dire, in Italia ci trattano così, andiamocene, ma non mollo, lo devo a un sacco di giovani italiani che cercano un lavoro. Così Farinetti, intervistato da Michele Brambilla sulla stampa, a pagina 10, il fondatore di Italy è stato costretto dalla polizia a disertare un dibattito. Beh, questa sì, è una vergogna senza fine, addirittura neanche Libero di dirla propria. Mentre il Fatto Quotidiano su Renzi oggi ha un'apertura che riprende un libro che è uscito, si chiama L'intoccabile, Matteo Renzi, la vera storia, è un libro di Davide Vecchi, e c'è questo episodio che viene messo in prima pagina: la vera storia di Renzi e Berlusconi, i rapporti sono grazie al fratello della madre di Renzi, quindi allo zio di Renzi, Nicola Bovoli, che aveva un contratto da 7 miliardi di lire con Fininvest. E intervistato da Davide Vecchi per il Fatto Quotidiano, dice: frequentavo il Cavaliere, frequentavo Dell'Utri, ero amico di Mike Bongiorno, lavoravo per lui e gli portai mio nipote e Mike Bongiorno lo prese alla ruota della fortuna. Ah, beh, pagina 5 del Fatto Quotidiano, ecco svelati gli imprescindibili retroscena della partecipazione di Matteo Renzi alla ruota della fortuna. Berlusconi racconta lo zio di Renzi, Mike Bongiorno era preoccupato nel 94, mi disse che era in tensione, non riusciva a trovare un concorrente che spiccasse, e così io gli portai Matteo. sostenendo che era un ragazzo vispo. Mike mi disse di fargli fare la selezione e lo prese subito. Sì, racconta lo zio, lo segnalai io a Mike Buongiorno. Caro Mauro Meazza, tu non hai uno zio che ti ha portato? No, come? Buongiorno Alessandro, no, a me, guarda, non ho zii così, diciamo così, ben inseriti, a me lo zio fa venire in mente solo quell'immortale canzone di Paolo Conte, zio, com'è, spiega la vita. Nessuno spiega che ti ha portato alla ruota della fortuna. No, mio zio, devo dire, è una simpatica persona, però non mi ha mai portato alla ruota della fortuna, casomai alla ruota del Luna Park, però questo mi sembrava anche nel suo. Ma magari mi poteva portare al Lake, ma hai visto che ha riaperto, ha riaperto i battenti Lake, ma che è questa fiera della moto, molto importante, si svolge qui a Milano, tra l'altro è al centenario. E insomma, c'è anche la Pascale, che è un harleyista, la Francesca Pascale. Questo è possibile che ci sia, volevi farti portare da tuo zio? No, Pascale, no, è impegnata. No. Volevi portare la Pascale sulla moto? Non sono motociclista. Niente, lasciamo stare gli zii e la Pascale, però dell'ECMA invece no, diamo delle notizie già nelle nostre pagine di Prese Territori e poi naturalmente su Motori 24, che è la parte del nostro sito del Sole 24 Ore dedicata proprio ai motori, in questo caso alle moto, alle due ruote, beh, qualche volta anche tre in realtà, con gli scooter più attuali. E poi che ti volevo dire, stavo leggendo con un po' di preoccupazione Padoan, cioè Dino Peso, che spiega questa lenta diminuzione della pressione fiscale. Padoan dice pressione fiscale in discesa nel 2015, poi sale. Volevo capire, cioè, questo andamento ondivago a cos'era riferito. Poi vi invito tutti a leggere questa parte, a pagina 6 oggi del Sole 24 Ore. Hai visto che puoi usare la cedolare anche se affitti a uso foresteria? Tu mi sottovaluti questa notizia, caro mio, ma guarda che invece è abbastanza importante, anche perché questo è mese di cedolare, novembre, come dice anche il poeta, mese di cedolare. E questa cedolare, è stato detto in una commissione tributaria, può essere applicata anche se tu fai il contratto uso foresteria. È molto importante, indovina dove ho letto questa notizia. Forse, no, vabbè, ma non te lo chiedo neanche, ma che te lo chiedo? Va bene, su norma. Sempre là, è sempre là, naturalmente, tutti i particolari le nuove norme per la giustizia civile. Puoi andare a divorziare anche dal sindaco, caro Alessandro. L'ho letto. Questa è una cosa che cambierà parecchio, insomma, speriamo anche che serva più che altro a diminuire gli arretrati. Vabbè, quindi io adesso vado a leggere Peso e poi prendo la Harley e passo a prendere Francesca Pascale. Ottimo. Forza Alessandro, l'unico Mira che non perde mai. Ma purtroppo... No, magari perdo anch'io. Se si vincessero tutti i Milan che conosco, sarebbe decisamente meglio. Grazie cara ascoltatrice. Intanto vogliamo buttarci subito sulle tante notizie di cronaca che ci sono, alcune dall'Italia, alcune dall'estero. Dall'Italia torna ancora, cioè non si placa la vicenda Cucchi. C'è un'interessante intervista che vi segnalo oggi sul Fatto Quotidiano, intervistato da Silvia Donghia. Chi c'è? Nicola Minichini è un poliziotto, è stato assolto in primo grado sulla vicenda Cucchi ed è un fiume in piena perché dice Cucchi arrivò già segnato. Indagate su chi l'ha arrestato, cioè i carabinieri. Io non voglio passare il resto della vita additato come un mostro. Ho ricevuto Cucchi alle 13.30 del 16 ottobre 2009. Lo hanno accompagnato i carabinieri dopo l'udienza di convalida e durante il passaggio di consegne si fanno le domande di prassi. Come stai fisicamente? Hai qualche problema? Cucchi rispose al mio collega di avere mal di testa e immediatamente chiamai il dottore. Io aveva, quando è arrivato, aveva già segni sotto gli occhi, lamentava mal di testa. Al medico che l'ha visitato ha detto di avere mal di schiena e quel medico l'ho chiamato io. Non ho visto il pestaggio, non ho assistito, ma secondo lei, uno che appena vede l'arrestato in quelle condizioni chiama il medico, è un mostro? Lui dice non so nient'altro, ma si chiede questo poliziotto perché non hanno indagato sui carabinieri. Non ho visto il pestaggio, se c'è stato io non c'ero, quello che so per certo è che da noi non è successo niente. Così dice questo poliziotto Nicola Minichini sul Fatto Quotidiano. Invece sulla vicenda case occupate di cui siamo occupati ieri parla il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, fa una polemica con l'Aler. Dice siamo pronti a schierare i vigilantes, così si ferma il racket delle case. È intervistato da Maurizio Giannattasio a pagina 19 del Corriere della Sera. Replica a Lombardi, che è l'ex prefetto di Milano e presidente dell'Aler, cioè l'azienda che gestisce queste case popolari. Noi siamo sempre stati chiari, siamo contro ogni occupazione abusiva, dice Pisapia. E a Lombardi rispondo, basta strumentalizzare, si cerca una volta di nascondere il disastro di Aler e scaricare su altri la responsabilità. In realtà risponde anche alla Lega Pisapia, la Lega aveva invocato l'esercito, no, l'esercito ha un'altra professionalità, rimetteremo invece i portieri negli stabili, che sono il primo presidio di legalità e possono segnalare i problemi. E poi rinforzeremo la sorveglianza con gli istituti di vigilanza e le telecamere. Legalità e rispetto sono punti cardine della mia amministrazione. Così Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, al Corriere della Sera. Due notizie però di cronaca provengono dall'estero e noi ne approfondiremo una alle 8.15. La vicenda di Brittany Maynard, che ricordate ha deciso di porre fine alla propria vita, era malata terminale, lo ha fatto in Oregon. La polemica è divampata ieri anche in Italia perché il Vaticano, per la precisione il responsabile dell'Accademia Pontificia per la Vita, una sorta di Ministero della Sanità, diciamo Vaticano, Monsignor Ignazio Carrasco de Paola, ha detto che la dignità non è mettere fine alla propria vita, è un'altra cosa. Insomma, il suicidio assistito è un assurdo. Pur rispettando e non giudicando le persone, il Monsignor Vaticano del Vaticano dice quello che poi è riassunto da titoli di giornali: il Vaticano su Brittany, non c'è dignità nei suicidi assistiti. Questo sia sul Libero con un dibattito eutanasia pro e contro, Mario Giordano è contro, Filippo Facci è a favore, Repubblica, Brittany, non c'è indignità in questa morte, così dice il Vaticano, non c'è dignità in questa morte, commenti e ne parleremo anche noi alle 8.15. L'altra notizia invece proviene dal Pakistan, una notizia sconvolgente, come racconta il Corriere della Sera con Carlo Baroni, ma è anche l'apertura di Avvenire, il titolo di prima pagina, il titolo è La fede bruciata. Una coppia di pakistani cristiani, Shahzad Masid e Shama Bibi, sono stati uccisi, picchiati da una folla e bruciati vivi. L'accusa nei loro confronti era di blasfemia nei confronti del Corano. Lei si chiamava Shama Bibi, aveva 30 anni, lui Shahzad Masid, 5 anni in più, giovane coppia come tante, 3 figli e un altro in arrivo. Erano cristiani, qualcosa che in certe parti del Pakistan, come racconta il Corriere, è meglio tenere nascosto. Nei giorni scorsi il padre di Shahzad era morto e dopo il funerale i due giovani erano tornati in casa, avevano bruciato delle cose e un uomo che assisteva alla scena giura di aver visto tra le cose bruciate anche alcune pagine del Corano. Blasfemia, accuse, senza neanche verificare se il testimone fosse attendibile. Una folla, richiamata anche dai villaggi vicini, ha cercato queste persone, le ha sequestrate, li hanno picchiati per 2 giorni e poi li hanno buttati ancora vivi nella fornace del loro paese. Io do la fredda notizia di cronaca senza commenti, perché sennò faccio scoppiare un casino. Allora, il titolo della Gazzetta dello Sport è questo: Pogbang, ah, la Juve fa festa, ma che paura, c'è anche la differenza reti, però siete a pari con Olympiacos, state allegri, siete secondi nel girone ma siete già qualificati, ormai è cosa fatta, è cosa sicura e cosa certa la Juventus andrà nel secondo turno di Champions League. Ma siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Io lo sapevo, ogni volta che ci sono le anticipazioni del libro di Bruno Vespa, poi finisce così, che i giornali cartacei campano compaginate dalle anticipazioni del libro di Bruno Vespa. L'ultima è quella piccante, succosa, su cui ci si sono tuffati tutti, ma Libero con una pagina intera: come Francesca Pascale ha conquistato Silvio Berlusconi. Una pagina intera di Francesco Borgonovo mettendosi sulla Harley Davidson, e la potete vedere su Oggi, vestita tutta di pelle sulla Harley. E poi lui viene chiamato da lei amore, oppure B nell'intimità, B, ma B a lui non piace, e allora preferisco amore, te credo, chiama B. E allora la Pascale in tutte le pose, anche in una in cui succhia il Calippo su Libero, il Calippo. Ma chi se ne frega? 24 mattino. I plan to be surrounded by my immediate family, which is my husband and my mother and my stepfather. Ho deciso di circondarmi solo della mia famiglia, mio marito, mia madre, il mio patrigno e la migliore amica, che è anche un medico. Morirò al piano di sopra, nel letto che condivido con mio marito, con mia madre e mio padre al mio fianco. Morirò serenamente, con della buona musica in sottofondo. Non riesco neanche a spiegarvi il sollievo che provo nel sapere che non devo morire nel modo in cui mi è stato detto, divorata dal mio cervello. Spero di godermi tutti i bellissimi giorni che mi restano da vivere su questa magnifica terra, stando il più possibile all'aperto, circondata dalle persone che amo. Spero di morire serenamente. La ragione per considerare la vita come un valore è non lasciarsi scappare le cose importanti. Vivere il presente, cosa ha valore per te, cosa conta veramente. Seguite quello e dimenticate il resto. Allora, il mondo aveva conosciuto così Brittany Maynard qualche tempo fa, con questo messaggio, con questo appello, nella quale questa persona, 29 anni, malata, un tumore al cervello in fase terminale, aveva deciso di porre fine alla propria vita, non aspettare il naturale corso della malattia, e lo ha fatto dicendolo pubblicamente con vari appelli, appoggiata anche da un'associazione, Compassion and Choice, che l'ha convinta. Probabilmente lei si è convinta andando nell'Oregon, stato degli Stati Uniti, dove questo è consentito, cioè il suicidio assistito è consentito, e poter fare ciò che ha fatto lo scorso primo novembre, e ha rivendicato questa come una morte con dignità. Ieri Monsignor Carrasco, che presiede la Pontificia Accademia per la Vita, quindi in Vaticano, ha detto che, pur non entrando nel giudizio personale della vicenda personale della donna, c'è un punto centrale, e cioè che dire che fare questo come morte con dignità è sbagliato. Bisogna chiedersi, dice Monsignor Carrasco, se questa è la morte con dignità. Il suicidio assistito non è una morte con dignità. La dignità è un'altra cosa che mettere fine alla propria vita. Insomma, il suicidio assistito è un'assurdità. Ovviamente il dibattito su questo tema si riapre, non si è mai chiuso, si riapre poi inevitabilmente quando ci sono casi anche mediatici come questo. Voglio salutare Mina Welby, buongiorno e benvenuta. Sì, buongiorno. La moglie di Pier Giorgio Welby, ricordiamo, il 20 dicembre 2006 morì dopo una lunga malattia, e fece una lunga battaglia perché venissero sospese le cure, venisse staccato il respiratore. Saluto anche l'onorevole Paola Binetti, deputata per l'Italia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, la domanda che mi pongo, onorevole Binetti, è banalmente questa: no, la dignità, il concetto di dignità, ognuno non se lo sceglie per se stesso, o c'è qualcuno che può imporre il concetto di dignità come valore assoluto? Guardi, io credo che, come sempre, c'è una parte totalmente soggettiva, che è quella per cui faccio delle scelte che sono quelle che caratterizzano la mia vita in base a una serie di valori, e cerco di vivere coerentemente con questi valori, per cui la dignità la misuro anche dal grado di coerenza tra i valori in cui credo e i valori che cerco di vivere. E su questo credo che ognuno di noi meriti il totale assoluto rispetto da parte degli altri, proprio in virtù della coerenza, eh? E mi sembra importante sottolinearlo. D'altra parte però l'oggetto stesso della scelta, quella che sia, può in qualche modo coinvolgere anche chi mi sta intorno a esprimere un giudizio sull'oggetto, che non è un giudizio sulla persona. Il giudizio sull'oggetto, nel caso specifico stiamo parlando di un suicidio assistito, è da sempre, per quello che riguarda, diciamo, una visione cattolica, una visione anche cristiana della vita, un oggetto che in qualche modo suscita vivissime perplessità. Per noi la vita notoriamente è un valore sacro e come tale, essendo un bene ricevuto, è anche un bene che mi chiede di custodire. Quindi lei dice, Monsignor Carrasco non fa altro che fare il ruolo che gli compete, voglio dire, il ruolo... Beh, è il presidente dell'Accademia per la vita. Ribadire i valori della Chiesa Cattolica. Dice che la vita è un valore che va in tutti i modi protetto e tutelato. Però mi sembra anche dalle parole che lei ha ricordato che Monsignor Carrasco sia stato estremamente rispettoso nei confronti della persona di Brittany, nei confronti della sua libertà sì, di coscienza. Sì, su questo sì, però c'è sempre, come dire, questo doppio binario, cioè fare questa premessa. Per carità, non giudichiamo le persone, ma il gesto in sé è considerato una questione negativa, una cosa sbagliata. Diciamo che in tutta la cultura, personalmente anche io lo credo con profonda convinzione personale, credo che la vita sia un valore da custodire, tanto più, insisto, quando tu ti schieri dalla parte anche di un malato. Noi cerchiamo di fare di tutto, adesso per fare un esempio che magari non dice nulla, no? Però nell'attuale legge che stiamo discutendo, con la legge di stabilità, c'è una campagna generale di tutto il Parlamento per ottenere che, per quello che viene chiamato i fondi per la non autosufficienza, ci siano risorse adeguate e sufficienti a sostenere i pazienti e le loro famiglie, perché la loro vita abbia valore. Questo è il tema che, sul quale il signor Carrasco poi si è addentrato, e poi lo vedremo. C'è chi mi scrive, ma affronteremo anche questo aspetto, cari ascoltatori: rispetto per la scelta, ma no all'assurda trasformazione in spot per la morte. Lo so che appare come una crudele accusa, ma di questo parleremo anche perché dopo la pubblicità ci raggiungerà Gianluca Nicoletti. Questa ragazza è stata anche accusata di avere spettacolarizzato la malattia. Lo so che, ripeto, è terribile, stiamo parlando di una persona che non c'è più, che era malata, appunto, che è morta. Però vorrei intanto da Mina Welby capire che cosa le ha dato fastidio, se qualcosa le ha dato fastidio nel giudizio di Monsignor Carrasco. Ma guardi, la dignità, io non posso dire che mi ha fatto riflettere su come viene visto da altri al di fuori del malato, magari lontano dal malato, e da istituzioni come istituzioni per la vita, bioetica, eccetera, come si vedano dalla loro parte. Ma io credo che personalmente anche il Monsignor Carrasco avrà pensato all'affetto, all'amore e la dignità della persona, espressione dell'autodeterminazione, della propria volontà di voler terminare una sofferenza inaudita. E io credo che su questa cosa c'è veramente bisogno di essere vicino alle persone, di capire, di entrare nel loro spettro di sofferenza. Io voglio dire anche un'altra cosa, anche la specularizzazione, come lei l'ha messa alla fine, anche questo è stato imputato fortemente a Pier Giorgio. Lui ha voluto spettacolarizzare, cioè metterlo al pubblico la sua morte, perché sapeva, indagando su internet, chiedendo persone, contattando persone che avevano passato questa sofferenza insieme ai loro parenti, che c'era la possibilità di staccarsi da un respiratore essendo sedati, e lui voleva far capire agli italiani che questa è una possibilità e che ci sono dei medici che sono pronti a farlo, ma è soltanto una questione di essere fortunati di trovarlo quando uno ne ha bisogno. Ecco, e forse questo è stato anche la motivazione per cui a Pier Giorgio è stato negato il funerale, anche perché lui era un esponente radicale, era presidente, co-presidente dell'associazione. Beh, ho capito, lo dice come se fosse esatto, una cosa normale negare il funerale a una persona perché è radicale, ricordiamo le polemiche. Nel senso, perché siamo nel 2014, lo dice come dire, sa, era radicale, quindi gli hanno negato il funerale. E vabbè. No, nemmeno tanto perché era radicale, ma perché aveva detto ripetutamente che voleva l'eutanasia. Lui con questa eutanasia voleva dire la buona morte, ecco, essere aiutato a morire serenamente. Letteralmente poi è il significato, sì, diciamo, dal greco. Lei combatte ancora per il diritto a introdurre l'eutanasia in Italia, signora Welby? Assolutamente sì. Abbiamo depositato una proposta di legge a mia prima firma sul rifiuto delle terapie e la liceità dell'eutanasia. Quindi in questa proposta di legge sono tutte e tre le opzioni, perché non volevamo far credere, come ci è stato imputato anche nelle legislature passate, che importavamo con un cavallo di Troia in una legge per il testamento biologico anche l'eutanasia. Quindi in questa proposta di legge c'è anche questa opzione. Quindi sono due cose ben diverse. Lei vorrebbe proprio l'introduzione, sì, della scelta, della libera scelta anche dell'eutanasia in anche Italia. Quando non ci sono più altre possibilità, cioè con le appropriate cure mediche, dove il medico e il paziente insieme possono dire c'è soltanto questa, sì, in caso ovviamente di malattie, diciamo, molto molto gravi, per le quali la medicina non può fare nulla dal punto di vista della guarigione. Può magari fare molto dal punto di vista dell'assistenza, ma non della guarigione. Ripartiremo da qui tra un attimo, dopo la pubblicità. C'è con noi l'onorevole Paola Binetti, c'è Mina Welby, ci raggiungerà anche Gianluca Nicoletti. Se volete dire la vostra su questo tema, so che è molto delicato, molto profondo, ma che ricredo coinvolga poi tutti noi da vicino quotidianamente, 800 24 0024. 24 mattino. Allora, stiamo parlando alle 8:37 minuti del caso Brittany Maynard. Intanto vorrei chiedere all'onorevole Paola Binetti questo. Guardi, onorevole, su Twitter Mariano scrive in maniera molto sintetica, il concetto è questo: la mia vita per la Binetti appartiene al suo Dio. E le faccio anche questa domanda e replichi a Mina Welby, che chiede la possibilità dell'eutanasia in Italia, cioè perché, questo non l'ho mai capito, un valore che deve essere considerato assoluto deve essere imposto a tutti coloro, anche a quelli che magari non pensano così, che la vita appartenga a Dio, ma che pensano che la vita appartenga a se stessi. Perché queste persone non possono esprimere con l'eutanasia una propria affermazione di libertà? Per vari motivi che spero di poter sintetizzare velocemente, cosa non facile. Comunque, prima di tutto perché ognuno di noi vive la sua vita non solo per se stessi e non ha ricevuto la vita solo, come dire, da solo, non si è dato la vita. Tutti noi abbiamo un profondo bisogno degli altri, la dimensione più profonda della nostra umanità, accanto certamente al principio di autodeterminazione che esprime la nostra libertà, è il bisogno assoluto che abbiamo degli altri. C'è un bisogno di solidarietà molto profonda che nasce non solo nel bambino quando è piccolissimo, ma che nasce nell'anziano, che copiamo nel malato. Da questo punto di vista la relazione di aiuto è talmente un potente fattore della nostra civiltà che noi dobbiamo riuscire a trasmettere a ogni persona che in qualche modo anche si trova, con l'espressione molto bella che usa Papa Francesco, alle periferie dell'esistenza. Dobbiamo sempre trasmettere la sensazione, sì, che non è solo perché la scienza si schiera dalla sua parte, non è solo perché la politica, non è solo perché la solidarietà, cioè, ma sociale. Chi compie questa scelta lo fa perché è solo? Beh, colpisce molto nella storia di Brittany, che devo dire è una storia molto complessa anche da capire, perché lei fino all'ultimo l'immagine che ci ha dato è un'immagine molto solare, è l'immagine anche della persona che mentre sta con il marito nel Grand Canyon dice ci sto ripensando. Forse, sì, però cioè, forse era solare perché poteva compiere la propria scelta come in estrema libertà, so, come ha fatto. Questo bisognerebbe riuscire a leggerlo più profondamente. Io le garantisco che quando una persona arriva a formulare una scelta di quel tipo non ci arriva in modo solare. Questa è un po' la contraddizione nella narrazione della storia di Brittany, che tu non tocchi mai con mano la profondità del dolore, la profondità della sofferenza. Ma non ci arriva in modo solare perché stava male. Secondo me è stata anche raccontata in una maniera proprio, non dico solo della buona morte, ma anche nella maniera della bella morte, nel senso che si è voluto mettere in evidenza come questa persona, e lei stessa peraltro lo dice, ha realizzato i suoi desideri più profondi, che è il desiderio di stare con le persone che ama, che è il desiderio di stare accanto alla natura che lei amava. Guardi, questa della bella morte, uso la sua espressione, è un tema molto molto interessante. Vogliamo sentire ancora la voce di Brittany? Questo è l'ultimo messaggio che ha lasciato prima di morire. When people criticize me for not not like waiting longer or you know whatever they've decided is best for me. Certa gente mi critica perché non aspetto più a lungo. Altri hanno deciso per conto loro cosa è meglio per me. Tutto questo mi addolora perché sono io quella che rischia. Rischio ogni singolo giorno, ogni volta che mi sveglio al mattino. Lo faccio perché mi sento ancora abbastanza bene, perché riesco ancora a gioire, perché rido e scherzo con gli amici e la famiglia, e perciò non sembra ancora il momento giusto. Insomma, Brittany, in quest'ultimo messaggio, dice: c'è gente che sceglie cosa è meglio per me. Gianluca Nicoletti, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, Gianluca, è stata anche criticata questa ragazza in maniera inesorabile, cruda, spietata, se volete, perché stiamo parlando di una persona che non c'è più, una persona morta, una persona che era gravemente malata, di voler spettacolarizzare offrendo al mondo gli ultimi mesi della sua vita. In fondo si dice migliaia di persone muoiono in silenzio e non lo fanno, mentre lei l'ha fatto. Si può addirittura arrivare a criticare questo? Ma dov'è la colpa, scusa? Perché se tu ti dovessi suicidare non manderesti un tweet prima di suicidarti, chiunque lo farebbe. Oggi è la nostra dimensione sociale pubblica, il social media, abbiamo una estensione della nostra coscienza, che è quello che noi diamo ogni giorno di noi stessi, della nostra vita, della nostra coscienza, della nostra esperienza, al nostro pubblico, che sono i nostri amici estesi, che sono le nostre relazioni digitali, che sono relazioni a tutti gli effetti, non le chiamiamo connessioni. Ogni suicida lascia una traccia, una testimonianza, un biglietto sulle motivazioni, sulle ragioni. Il suicidio è un atto epico, è comunque un atto epico, non è un atto che si consuma solamente in solitudine. Si fa il suicidio, ci si suicida anche per lasciare una ultima testimonianza della propria vita al resto del mondo. E un suicida ha sempre lasciato un biglietto. La stranezza, ti dirà ogni criminologo, è quando una persona suicida non lascia nessuna traccia, nessuna motivazione. Oggi la modalità di comunicazione tra noi e il mondo è social media, quindi naturalmente l'ha lasciato attraverso gli strumenti che ha. C'è però un aspetto mediatico in più in questa storia, se tu l'hai colto, perché ha raccontato proprio gli ultimi mesi della vita: voglio realizzare i miei ultimi desideri, andare al Grand Canyon, e lo ha fatto con tanto di immagine, voglio festeggiare il compleanno di mio marito, e l'ha fatto proprio il giorno prima di porre fine alla propria vita. Ma perché, scusa, quello che mi risulta poco chiaro, innanzitutto sul concetto di bella morte, la nostra storia è piena di santi e di eroi che hanno scelto belle morti. Abbiamo portato sugli altari delle bambine che si sono fatte ammazzare per non dover subire un atto sessuale, ponendo il valore della vita come un valore comunque negoziabile rispetto all'atto sessuale, perché ci scandalizziamo se un'altra ragazza decide di anteporre la morte a una sofferenza così cocente come la perdita graduale della propria coscienza. Sai cosa? Gianluca, qualcuno addirittura ha collegato le elezioni che ci sono state nel midterm americane nella notte, nel martedì, e perché ci si pronunciava anche in alcuni stati su alcuni diritti, e appunto la coincidenza di voler fare accadere tutto ciò proprio per sensibilizzare l'elettorato americano. Allora, che qualcuno al di fuori, al di là della volontà, non credo che questa ragazza abbia avuto voglia di scherzare o di mettere il proprio suicidio trasformato in un atto epico secondo le modalità contemporanee, che è quello di raccontare alla immensa platea dei nostri amici, dei nostri contatti, le persone che ci seguono, qualcosa che accade nella nostra vita. Tutto raccontiamo nella nostra vita, raccontiamo le nascite, non sappiamo quante ecografie digitali vengono messe online, quanti genitori appena hanno la prima ecografia del proprio figlio la mettono subito online. E se può essere spettacolarizzata la vita, perché non può farlo anche la morte, che è la fase culminante della vita, è l'estremo della vita. Che qualcuno poi su questo, naturalmente, si sia inserito un filone sociopolitico che tende a trasformare in programma di partito, di politica, di gruppo, sì, di fazione, l'aspetto che il controllo della vita e della morte sia un fatto individuale, ci sta tutto. Ma io poi dico che non c'è niente di male. Qui c'è Mina Welby, ancora con noi, alla quale che vorrei coinvolgere su questo, e che ci sta raccontando come, signora Mina, e mi corregga se sbaglio, si possono anche utilizzare delle occasioni per portare avanti delle battaglie in cui uno crede. Cioè, che cosa c'è di male in questo? Il fatto che le battaglie sono battaglie magari un po' crude da sbattere in faccia alle altre persone, è questo che dà fastidio? Ma forse questo, oppure proprio la incapacità di voler fare una, di voler discutere e dibattere su delle scelte di fine vita, anche per l'eutanasia. Pier Giorgio disse proprio negli ultimi giorni: Mina, morire non è uno scherzo. Queste sono sue parole. E quindi, oppure lo ha lasciato scritto anche sul suo computer: vorrei non essermi svegliato stamattina. Insomma, sono tutte cose che ancora vivono e io posso ancora dire. E dall'altra parte, Brittany, trovo un grande parallelo, perché lei aveva voluto con il suo gesto chiedere alla California, dalla quale lei proveniva, era andata a trasferirsi nell'Oregon, con Compassion and Joyce ha voluto convincere e far lavorare perché anche in California si facesse una legge sull'eutanasia, sulla possibilità di scelta, di una scelta. Ma su questo non c'è dubbio, cioè ha voluto sensibilizzare, ecco. È chiaro che ha voluto sensibilizzare l'opinione pubblica su una battaglia in cui credeva. Su questo è questo che non capisco che cosa ci sia di male. Ma dopo il traffico rientriamo con gli ospiti e gli ascoltatori. Allora, sentirei Giacomo che ci chiama da Bologna. Buongiorno Giacomo. Buongiorno, vorrei fare una premessa che dopo già. Io non ho mai vissuto in vita mia un caso come quello di Britney. Non importa. E non sono stati mai toccati neppure i miei parenti. Quindi il concetto è questo: qui si parla di poter discutere o sensibilizzare, ma si sta facendo. Un altro discorso è chiedere a uno Stato di regolamentare un qualcosa che è assolutamente personale. Come una famiglia, come è stato detto, noi non scegliamo di venire al mondo. Due persone, due genitori mettono al mondo una persona e quella persona non lo sceglie. Allo stesso modo non si può chiedere di prendere argomenti bioetici estremamente delicati, oltretutto esistono da secoli, perché il suicidio, la scelta di... Cioè non si può, non si può legiferare sui temi bioetici? Non si può legiferare su temi come questi, perché sono estremamente particolari e ogni singolo caso ha i suoi dettagli stretti, ha parenti che sono coinvolti. Quindi pensare che uno Stato possa partire da una questione estremamente, mi passi il termine, passionale ed emotiva, come la scelta di fronte a una malattia, in questo caso, di togliersi la vita per non dover affrontare. Lei dice sbagliato, insomma, perché ogni caso è singolo e dunque una legge non può mettere un cappello superiore che preveda ogni singola peculiarità. E per questo, Giacomo, lei dice, non si può legiferare. Non so, onorevole Binetti, forse neanche lei la pensa così, o forse sì. Ma guardi, noi abbiamo cercato, come lei sa, da più legislature di affrontare il tema del cosiddetto testamento biologico. Appunto. No? E da questo punto di vista ci sono diversi disegni di legge. Prima Mina Webby faceva riferimento a quello che lei ha presentato. Io le posso dire che in quello che io ho presentato e ripresentato nelle ultime anche legislature, per me ci sono alcuni punti molto chiari, che sono un no chiaro all'accanimento terapeutico. Però sì, c'è anche un no altrettanto chiaro all'abbandono del malato, che quello abbandono, intendo dire abbandono, sì, terapeutico, sì, del malato. Viceversa c'è un sì all'autodeterminazione del paziente, purché questa autodeterminazione non si spinga fino proprio alla periferia dell'esistenza, che è il momento in cui lui chiede o un farmaco attivo che lo faccia morire, oppure la sospensione di quelle che noi chiamiamo le cosiddette terapie salvavita. Però l'eutanasia, cioè, invece questa assolutamente... L'eutanasia è totalmente fuori dai nostri disegni di legge. Per inciso, se il disegno di legge di Mina Welby, che sarà fatto proprio per essere discusso in Parlamento, deve essere fatto proprio, o una legge di iniziativa, sì, popolare, quindi sì, ha raggiunto un numero molto alto di firme, oppure presentata da un parlamentare, sarà votata. Ci saranno coloro che voteranno a favore di questa legge, ovviamente. Beh, ma è chiaro, chiaro dalla parte di coloro che voteranno contro. Su questo non c'è... Le chiedo questo, onorevole Binetti, a distanza di vari anni, secondo lei fu un errore da parte della Chiesa non concedere i funerali per Giorgio Welby? Guardi, l'ha detto anche bene Mina Welby, credo che sinceramente la pietà avrebbe chiesto comunque la benedizione della persona e comunque la capacità di accompagnamento, perché c'è sempre quel punto di indeterminatezza, peraltro, di cui anche mi sembra che Monsignor Carrasco parla, non si sa che cosa può succedere poi anche all'ultimo. Però c'è un ma in questo discorso. Però in vista di questo, come dire, beneficio del dubbio che la persona a un certo punto abbia voluto veramente cercare la sua propria personale riconciliazione con Dio, perché poi alla fine il senso del funerale è questa dimensione profondamente spirituale per cui tu accompagni la persona. Sì. Insomma, la pietà avrebbe spinto, ma... La pietà avrebbe, certamente, se lei me lo chiede, non toccava prendere questa decisione, è evidente che io mi sarei schierata a favore del funerale. Favore. Vorrei chiedere anche a Gianluca Nicoletti invece che effetto ti fa, se ti fa qualche effetto, il fatto che Monsignor Carrasco parli della Chiesa. È caduta la linea, adesso la recuperiamo. Che Monsignor Carrasco parli dicendo il suicidio assistito è una morte non dignitosa. Prima però vorrei sentire Stefano da Torino, intanto che recuperiamo Gianluca Nicoletti. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, mi ha colpito molto la morte di Anthony, ma non per quello che è l'atto fisico, ma per quello che ha lasciato come messaggio e nelle sue ultime parole che ho letto sui giornali. Ovvero, il fatto che lei trasmette questo amore nei confronti di tutti. Amatevi, vogliatevi bene, è stato un mondo fantastico e il mio amore per il viaggio che ho intervistato. Insomma, l'ha colpita positivamente questo ultimo messaggio di Brittany, certamente colpisce le corde più intime. Gianluca, ti chiedo per concludere, Monsignor Carrasco fa il suo lavoro di prete, di Monsignore, di Presidente della Pontificia Accademia della Vita nel dire che non c'è dignità nel suicidio assistito, oppure esonda? Che deve dire un prete? Giustamente dice quello che non può dire altrimenti, è il suo punto di vista, ma e chi ha una visione laica dell'esistenza se ne sbatte, quello che dice un prete sono fatti suoi, non è un problema che riguarda la persona. E, ascoltando poi i vari interventi, mi rendo ancora più conto che in realtà questa ragazza ha compiuto quello che viene normalmente definito un gesto eroico, ha testimoniato qualcosa in cui credeva e ha messo la sua vita a rafforzare questa testimonianza, esattamente come le persone che si immolano, si fanno uccidere, mettono la loro vita, antepongono la loro vita alla forza del loro ideale. Non ci vedo nulla di strano, semplicemente la stranezza che il mondo ancora non è abituato a percepire questi gesti che passano attraverso degli strumenti di comunicazione e di diffusione che sono i media digitali. E se si fosse bruciata su una piazza per il nome della libertà, apparteneva all'antico mondo in cui i martiri facevano questo. Oggi si suicida in diretta, live, streaming, e questo probabilmente crea stupore, ma esattamente la stessa modalità, cambia semplicemente la maniera di comunicarlo. Per totale rispetto per quello che ha fatto questa ragazza, non ci vedo nulla di particolare, semplicemente la declinazione attraverso una modalità contemporanea di un antichissimo gesto epico che è quello del martire e dell'eroe, così almeno definito dalla società. Io qui mi fermo ringraziando Gianluca Nicoletti, che troveremo ovviamente alle 12.30 con Melog, come ogni giorno, su Radio 24. E grazie all'onorevole Paola Binetti e a Mina Welby per essere stati con noi. Ci ritroviamo domattina.